Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Sorridere, certo, ma soprattutto per riflettere. I precari di Benevento, quelli che per giorni hanno protestato, lo ricorderete, sul tetto dell'ex provveditorato, hanno realizzato il calendario del precario 2010. Il ricavato andrà ai colleghi che da marzo non percepiranno più l'indennità di disoccupazione. Ci racconta tutto Daniela Basile, precaria da 16 anni. Questo calendario ci sono un po' le immagini di quelle che sono i percorsi, le tappe che attraversa il precario e anche le sensazioni che può vivere. Ci descrive proprio in una parola tutti i mesi? Allora, abbiamo gennaio, praticamente il vento che porta via una serie di precari, siamo tutti timbrati, ci sono delle polaroid con sopra i timbri precario, precario, precario. Febbraio, la lotta ai tagli, che abbiamo fatto una sorta di metafora, un collega che interpretava il governo che cercava di strappare i libri e noi le leonesse sannite, quelle che sono state per diversi giorni sul tetto del provveditorato, che cercano invece di sconfiggere e di far sì che la cultura diventi il perno centrale della società e dell'istruzione. Marzo praticamente è l'equilibrio precario, siamo noi tre in equilibrio precario su una lavagna perché scade praticamente l'INPS, l'indennità di disoccupazione, e il futuro diventa oscuro. Aprile l'abbiamo fatto la farsa, una sorta delle immagini grottesche, anche i nostri visi sono cambiati, mutati, è stata voluta questa cosa proprio per mettere in risalto la metafora, la farsa dei titoli che non servono a nulla, praticamente ci hanno fatto prendere abilitazioni, corsi, secondi corsi abilitanti a pagamento, master, corsi di perfezionamento e poi ci mandano a casa dicendo che questi titoli non sono serviti a nulla. Maggio noi in vetrina, in vendita, siamo dietro alla vetrina di un negozio a svolgere quelle che erano le nostre mansioni e siamo in vendita perché alla fine, nonostante tutti i titoli, nonostante siamo del personale qualificato, ci stanno mandando a casa. Giugno, un'immagine presa dal tetto del provveditorato di Benevento dove noi reclamiamo diritti e reclamiamo dignità. Luglio, la vacanza che non c'è, l'unica vacanza che ci possiamo permettere è quella al mare a vendere cocchi, che noi vacanze non ne facciamo, molto spesso rimaniamo a casa a pensare al posto, se riusciamo ad avere l'incarico dietro a un computer, a telefonare per vedere se si riesce a lavorare l'anno successivo oppure no. Agosto il tetto, foto collage del tetto perché lì è cominciata tutta la protesta che poi si è diffusa in tutta Italia. Settembre questa fila che dura una vita, ottobre tutte le certezze, tutte le speranze che volano via attraverso delle mongolfiere e dei palloncini, quindi tutto quello che noi ci eravamo costruiti perché non abbiamo avuto né incarico né assunzione a tempo indeterminato volano via. Novembre la rabbia degna, perché nonostante tutte questi soprusi, mancanza di tutele e di diritti lavorativi, noi comunque manteniamo un certo contegno, una rabbia degna, perché non abbiamo mai manifestato in maniera violenta, le nostre proteste sono sempre state pacifiche e originali. Dicembre, Babbo Natale, una collega vestita da Babbo Natale che ci consegna in una sorta di palla magica una cattedra. Dall'assurda storia dei precari a quella altrettanto assurda dei presidi siciliani. La storia è davvero troppo lunga e noiosa per raccontarla in tutti i suoi passaggi. Di fatto nel 2006 si svolge il concorso, si scoprono poi irregolarità nella formazione delle commissioni esaminatrici, per non dire poi degli errori grammaticali trovati su alcuni temi di candidati poi promossi. Due insegnanti che non passano il concorso presentano ricorso e da lì è la giungla classica di ricorsi, pronunciamenti del TAR, contropronunciamenti, insomma, se non arriva una sorta di sanatoria da parte del Parlamento che ha già inserito una norma nel decreto salva precari, quel concorso andrà rifatto. Centinaia di presidi torneranno alla casella iniziale, le loro scuole nel frattempo sono nel caos. Come ci racconta Riccardo Occhipinti, referente siciliano dell'Associazione Nazionale Presidi. Ma che cosa vuole che se per ora stanno ancora lavorando perché non c'è nessun provvedimento preso. Cosa succederà dopo non lo sappiamo, perché staremo a vedere, perché si parla del fatto che queste persone dovrebbero tornare a fare gli insegnanti nelle scuole dove erano prima, e che quelli che erano stati nominati al posto loro dovrebbero restare a disposizione. Però voglio dire, questo è di là da venire. Lei che soluzione auspicherebbe? Beh, io le dico la verità, a me sembra veramente una cosa assurda, pirandelliana, se non fosse tragica, insomma. E a me pare, del resto, siamo nella terra di Pirandello, per cui... Ma siamo nella terra di Pirandello, praticamente qui non... Veramente una cosa assurda, nel senso che se questa sentenza o questa cosa fosse intervenuta in corso d'opera, probabilmente non avremmo potuto avere questa situazione paradossale che si è determinata ora. Però c'è gente che ha sostenuto esami, diversi esami, ha fatto corsi di formazione, ha lavorato nella scuola e bene o male ha portato avanti a volte anche molto bene questo carico che gli è stato affidato, questo incarico che gli è stato affidato, e insomma ora si vede da un momento all'altro, come dire, annullare tutto. Quindi lei auspica che tutto sommato quella che potremmo definire la sanatoria voluta dal governo passi? Ma io credo che non ci sia da auspicare altro. Se io partecipo a un concorso, faccio gli iscritti, sostengo gli orali, mi faccio i corsi di formazione e poi vado a lavorare, cioè voglio dire, perché devo piangere le conseguenze di una cosa che io non ho contribuito, diciamo, a far sì che fosse sbagliata, se sbagliata è stata. Primo ricevimento generale dei genitori. Ha la testa tra le nuvole. Si spara una canna dietro l'altra. Denota una certa vivacità. Rompe costantemente i coglioni. È un ragazzo molto sensibile. Come avete fatto ancora a non accorgervi che è omosessuale? È una ragazza molto aperta. L'ha data a tutta la classe. E sì, ci sono un bel po' di parolacce in Perle Porci, editore Rizzoli, di Gianmarco Perboni, pseudonimo di De Amicisiana Memoria, di un insegnante di lingua straniera di un istituto superiore di provincia. La colpa del fancazzismo dello studente è nell'ordine del professore, della famiglia, della scuola. L'idea che possa trattarsi semplicemente di buona, sana, vecchia mancanza di voglia di studiare, che per generazioni è stata efficacemente curata con una buona, sana, vecchia bocciatura, non sfiora nessuno, salvo l'ingenuo professore, che viene sistematicamente messo in minoranza e ammonito di adeguarsi ai tempi che corrono. Un libro che fa sorridere Perle Porci, ma a denti stretti. Lascia infatti molto l'amaro in bocca nel constatare che ormai l'insegnante, più che insegnare, si diverte a fare la carogna. Sì, ma lo faccio apposta però, nel senso che è un punto di vista studiato. Perché? Lo richiede la situazione attuale, sia della scuola che degli studenti. Con la bontà purtroppo si fa poca strada. Ecco, lei i suoi studenti, gli studenti in generale, li definisce la canaglia studentesca. Sì. Ma sono così messi male? Sono davvero così da buttare via questi ragazzi con cui lei lavora tutti i giorni? Purtroppo sì, non ovviamente per colpa loro, però una buona parte di loro ha ricevuto e riceve da tutto ciò che li circonda, dalla società, dai media, eccetera, degli input assolutamente sbagliati, ai quali loro ovviamente si adeguano, perché in gran parte manca loro ancora lo spirito critico che servirebbe per saper discernere il buono dal cattivo. La funzione dell'insegnante dovrebbe essere quella di aiutarli a distinguere questo buono dal cattivo, però purtroppo si è instaurato un circolo vizioso per cui L'insegnante ha perso di prestigio e perciò ciò che dice non ha più l'autorevolezza e l'autorità per poter far loro cambiare idea o per poter incidere in maniera significativa su quelli che sono i loro costumi e le loro abitudini. E allora si rifugia nella carognaggine? Sì, è l'unico modo. Però facendo così la scuola non perde un po' la sua funzione educativa? Lei dice arrivano dei ragazzi che, insomma, lei appunto li definisce la canaglia studentesca, non per colpa loro ma per i messaggi che gli arrivano. Però la scuola non dovrebbe provare invece a dare messaggi diversi attraverso anche degli strumenti comunicativi diversi che non siano soltanto quelli della cattiveria e quello di mettersi al loro livello? Sì, la scuola dovrebbe, come? Purtroppo mancano gli strumenti. Perché non cambia lavoro? Ma perché io nell'insegnamento, fatto a modo mio, ma ci credo ancora, anzi. Per riascoltare questa puntata, come tutte le altre, radio24.it. Noi ci risentiamo sabato prossimo, come sempre, alle 12.45.